un bambino semplice, no no. Vabbè, Gianfranco, e allora, ancora vivi, sì. Io ci provo. Io mi chiedevo se tu invece ce l'avevi fatta. Sì, mi ha accorciato. Vabbè, sto provando. Ora, com'è la modulazione, Gianfranco? Mi sembra buona. Dico mi sembra perché era la moto che non ti ascoltava, comunque ti ho riconosciuto. Quindi vuol dire che sta andando anche benino. Cioè bene, dai, il segnale è anche 9, quindi lo applico bene se sei con un codazzo di antenna che conosco io. Eia, eia, eia, eia. Ma se tu ti dà amico tuo, l'ho visto l'altro giorno, ma che sto di te? Capito? E io ho detto, no, non devo fare quello che fa bene, che è ricco, si è comprato una villa. Hai fatto benissimo. Ci stavo giusto pensando, lo sai. Quando ti fa guarda caso non lo so sognato, che sogno brutto. E beh, come vecchio ricoglionito scommetto. Faccio per peggio, capito? Quelli vanno e peggiorano, mica migliorano. Ah no, no, no. Quello non c'ho di dubbio. E la cosa ce l'ho sempre, sì. Ma che già fa? Ho preso un filo che stavo facendo cosa qua, cosa hai detto? Ho detto se la coda ce l'ha sempre, se l'ululato. Allora, sempre, sempre. Infatti mi ha detto, qua devo telefonare per vedere se ancora c'ho, siccome non ho più pagato la tassa, per vedere se ancora c'ho l'illuminativo, a te lo lascio. Cioè, ma ti rendi conto, quelle pretese, no? Se non paga la tassa, sembrerebbe che quelli le lasciano pure il nominativo. Vabbè, meno male di 5 euro, figurati se fosse stato di più. Vorrei sapere quanto ha risparmiato nel corso di tutti questi anni. Infatti io ho detto, ma se tu la cosa si preoccupa, non sei mai stato tu radioamatore, mai. C'è la carta sotto per radioamatore. E poi tu devi telefonare sul tuo ufficio e loro fanno la richiesta, ti diranno come fare. Devi fare tutta la richiesta, paghi con la P maiuscola, e loro ti danno la figa nuova, nonché uovo ti danno gli S0. Uovo no, uovo nuovo me daranno. Allora, per carità. Ok, c'è traffico lì in PMR, poi qua non c'è più niente. No, già c'è niente, dai, se tu non entri, Fabrizio. Io infatti sono sempre in ascolto, entra Claudio, entrano tanti altri. Insomma, c'è più traffico qua che su. Quello non c'è ombra di dubbio. Ovviamente. Ma ti ho capito, mi arrivi bene, segniamo, ogni tanto ho delle scariche, non capisco perché. Ma quando accendo questo cazzo di cose, hanno cambiato qua le lampadine dell'illuminazione del compasso. E ci sono giorni, cazzo che mi fa, delle scariche con tutte le radio. Non capisco perché, a volte no. Non vorrei che ci sia qualcuno sopra di me, cazzo che abbia qualche alimentatore di qualche apparato, di qualche apparecchio che mi crea problemi. Ma lo fa con tutti gli apparecchi, lo fa. Sì, potrebbe essere qualche, perché qualcuno se l'ha lamentato di quello, qualche antennina della Link magari che hanno messo, quelle magari un po' trattate, possono fare quel disturbo, se non è costante, perché se le luci una volta che lo accendi praticamente se disturbano sempre quando sono accese, se invece così è magari qualcuno che accende l'antennina e niente, succede questo. Per il momento, poi sono la sera, la mattina è tranquillo, quando capita che c'è la mattina è tranquillo, a volte la sera, e c'è anche l'uno, capito, è tutto lì, aspetta un attimino, ora, ok, tempo balordo, sarà più vicinato qua. Qua no, è vero, ma è un balordo, ma ancora non succede niente, quindi per adesso niente pioggia. Ti dicevo, sei andato in pensione qui. Ah, sì, mica sono politico. No, porca miseria, io ho detto, beh, vediamo anche il voto adesso, se non è ancora andato in pensione a Fabrizio. E invece mi dici che non ti sei dato poi la politica. Molto male. Allora, mi hanno solo pregato la salute, che dico il più possibile. Poi del resto, oioia, siamo messi male, una nazione come il tempo, è proprio, ci sarebbe voluto qua per mettere tutto a posto, una mezza dittatura, non una dittatura, una mezza. E invece siamo passati da quello là a niente. In un certo senso, ce l'abbiamo avuta una mezza dittatura. Siamo fortunati, riusciamo anche a andare a votare questa volta. Ma se così, caro Fabrizio, è da tantissimo veramente che non ti sento, non stai più entrando, c'è un bandito, tanto per candidare, una primula rossa, anzi una primula nera, perché il rosso ti dà fastidio. Ed è così. Io invece, guarda, sto usando il tempo idraulico perché sono 2 ore. E mi vergogno di dirlo, dopo tanti tanti che ne ho fatto, 2 ore tentando di saldare un BNC, un BNC, ti rendi conto? Vado a misurarlo con lo strumento e mi dice, è in corto circuito. Che cavolo, ma fanno buchi di un decimo di millimetro, il filo ovviamente non c'entra. È pazzesco, guarda. Oh, già prova a passare un FM a vedere. Proviamo.